Buonasera Claudio Simonetti. Ah, ciao, buonasera, ciao a tutti. Sai perché ti ho messo, abbiamo fatto sentire i Trip? Perché mi ricordavo, che prima ci abbiamo sentiti per telefono, che il ritratto di Dorian Gray, che aveva suonato a Caracalla nel 71, purtroppo non c'ha nessun escursus discografico. Noi eravamo tra quelli pochi fortunati che non avevano registrato un disco, anche perché mentre oggi registrare un disco è un punto di partenza, sì. Allora era un punto d'arrivo, cioè... Chi registrava il disco aveva già fatto bingo, e quindi perché, insomma, con quello che costavano, con le sulle registrazioni, non era come oggi, entrare in sala di registrazione costava molti soldi, quindi trovare una casa discografica disposta a investire soprattutto su un genere come il nostro, che allora era il rock, il progressive, il pop, così, insomma, non era facile. Erano pochi eletti quelli che riuscivano a registrare, magari quelli erano... nei primi tempi degli anni 70, forse noi con il ritratto di Dorian Gray eravamo un pochettino più giovani di quelli che hai nominato prima, i Trip, il Banco e questi qua, che sono un po' più grandi di noi, quindi noi nel 71 avevamo 18 anni, 19, quindi eravamo un po' più giovincelli ed eravamo più difficili, eravamo meno bravi a trovare la casa discografica o cose del genere. Certo, anche se però avevi qualche conoscenza in Rai, Claudio, vero? Ma sì, beh, diciamo con mio padre, sì, certo. Mio padre sì, decisamente, infatti è stato poi grazie a mio padre, sì, che in seguito con i Goblin siamo riusciti a entrare con la Cinevox Record, che ci ha dato la possibilità di fare Profondo Rosso, ecco. E di là c'è stata una partenza senza più fermarsi. Una partenza sfolgorante, sì. Assolutamente, infatti. Sì, anche perché quando si parla di Goblin, assolutamente a nessuno viene più in mente quei mostriciattoli che vanno a rubare i bambini dalle mamme, sostituendoli con i mostriciattoli degli altri, no? In questo caso era una vecchia favola che parlava di Goblin. I Goblin, sì, in Goblin Italia era il folletto, anche quello che si sempre ad Halloween, sì, tu li vedi nei film americani, la zucca, certo, quelle cose lì, quindi là il Goblin è uno di quei personaggi, anche se poi Goblin più famoso è sicuramente quello dell'uomo ragno. Certo, Goblin più famoso è quello dell'uomo ragno. Diventò il nemico acerrimo dell'uomo ragno, e quindi... Però in Italia Goblin vuol dire Simonetti, vuol dire assolutamente. Beh, insomma, sì, vuol dire, ecco, il quindi... gruppo, certo, esatto, sì, il, certo, gruppo che abbiamo formato io e Massimo Morante nel 74, abbiamo formato la prima versione, che ancora non si chiamava Goblin, ma si chiamava Oliver, esatto. Mm-hmm. E quindi quella è stata, diciamo, gli albori dei Goblin, insomma. Difatti ci siamo rimessi insieme adesso ultimamente come Goblin, sempre io e Massimo Morante, e quindi abbiamo ricostituito i Goblin anche con un altro tastierista che ha suonato con noi nell'album Roller, che è Maurizio Guarini, e abbiamo fatto i Goblin nuovamente, solo che siamo solo noi tre e non ci sono più i due vecchi, il tastierista e il bassista, okay, che c'erano prima. Ti cito un episodio adesso: quando uscì Profondo Rosso, che mi pare che sia arrivato a 3 milioni di copie, un album di esordio, una cosa straordinaria. Sì, veramente oggi impensabile. Esattamente. Una cosa del genere. Ricordo che qui c'era un negozio famoso a Padova di dischi, che non citiamo chiaramente, e la gente veniva da tutto il Veneto a comprare il Profondo Rosso in questo negozio perché aveva uno sconto particolare. Ah sì, eh? Esatto, venivano un sacco di gente a comprare Profondo Rosso, mi ricordo, come fosse ieri, era proprio così, gente da tutto il Veneto veniva a comprare il disco Profondo Rosso in questo negozio. Bene, sono cose piacevoli da ricordare, Maurizio, anche perché tu eri in fila tra quelli, vero? Sì. Anch'io. Il vinile, una volta si usava il vinile, Claudio, chiaramente. Sì, poi veder girare il vinile che sta riprendendo anche adesso, insomma, esatto, perché vedo che molti hanno ristampato anche la BTF di Milano, ha ristampato tutti i dischi dei Goblin e sta ristampando tutto il prog italiano su vinile, quindi anche per i collezionisti, quindi anche una bella cosa, almeno cercare di riprendere le vendite discografiche anche attraverso il vinile, che è l'unica cosa che non si può né tirare giù da internet, né scaricare, né avere la pirateria, perché il vinile costa farlo, quindi nessuno, a quei tempi non c'erano i pirati, perché fare un vinile costava troppo. No, c'erano solamente i bootleg, ma quella è un'altra storia, no? Che parlava sempre di pirateria in altro senso. Sì. E che comunque i bootleg avevano il loro iter, che era lo stesso lì, che dovevano comunque spendere i soldi per fare la matrice, la lacca, e investire dei soldi e poi venderli a prezzi esorbitanti. Quindi in realtà era una pirateria che comunque si vendeva, non era una pirateria che era gratis. Certo. Bene, allora iniziamo in quello che è il percorso musicale. Noi abbiamo già una traccia delle tue canzoni, indovina quale abbiamo scelto, bravo. Non so, Profondo Rosso. È proprio quella, Profondo Rosso, perché è da tanto che non l'ascoltiamo, allora vediamo di ascoltarla insieme agli ascoltatori e poi vediamo di fare ancora qualche domanda per capire qualcosa di più riguardo la musica di Claudio certo. Simonetti. A tra poco allora, Claudio. Ok, allora. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Io non lo so perché, ma mentre ascoltavo questa canzone continuavo a guardarmi alle spalle. Perché è una musica che se non era abbinata al film, aveva sicuramente tutt'altro effetto, ma abbinandola a un film tra i primi. Diciamo di suspense e di paura, sì, insomma, fanno ancora tornare in mente certe scene che insomma facevano un po', ecco. Mezzo paura, sì. Certo. Claudio, com'è stato l'incontro? Diciamo che lì è stato un connubio molto fortunato, perché insomma la musica era bella, però anche il film era molto bello. quindi. Sì. Come è stato l'incontro con Dario Argento, Claudio? Ma Dario Argento l'abbiamo incontrato per un caso fortuito, perché appunto noi con la band, quando ancora si chiamava Oliver, come ho detto prima, eravamo stati in Inghilterra per un annetto circa, e lì avevamo registrato delle demo, avevamo fatto qualche concerto e tutto. Poi dopodiché siamo tornati in Italia, perché era difficile insomma portare la musica inglese agli inglesi da italiani, e quindi praticamente siamo tornati in Italia con questi provini, e grazie a mio padre, che era con la Cinebox Record anche lui come artista, ci presentò al produttore Carlo Bixio e ci fece fare il contratto, e quindi noi siamo entrati in sala di registrazione per registrare quei pezzi che erano i provini che avevamo fatto. Se non che, siccome Carlo Bixio sono anche editori, e tra parentesi loro sono editori di moltissimi film, tra i quali Sergio Leone, tutti i più grandi successi, così, e anche quelli di Dario Argento, loro erano già stati editori del 39 Code, il Cielo e Pini di Stallo, e Dario Argento aveva appena finito Profondo Rosso e voleva una band rock per eseguire le musiche, per fare le musiche del film. Allora Bixio gli presentò, lo portò in studio e gli fece ascoltare quello che noi stavamo facendo, e Dario coraggiosamente ci affidò la colonna sonora. Noi eravamo giovani, eravamo appena poco più di 20 anni, insomma affidare una colonna sonora del genere non era una cosa facile, eh? E quindi siamo entrati in sala di registrazione e abbiamo cominciato a registrare, e poi è venuto fuori quello, insomma, la colonna sonora che tutti conoscete. Un successo incredibile. sì, beh, inaspettato per tutti, insomma siamo stati fortunati noi, ma anche fortunato lui ad aver trovato noi, perché lui ci ha visto bene, però insomma anche la musica ha fatto funzionare bene il film, certo. E tutti e due si sono aiutati moltissimo. Esatto, certo. Al che non vi ha più mollato. No, beh, insomma mica tanto, perché poi alla fine abbiamo fatto, come Goblin, abbiamo fatto solo Suspiria poi con lui e basta, perché poi la band si è sciolta nel 78, c'è stata una breve reunion con due di loro per fare Tenebre con Morante e Pignatelli. Sì. Dopodiché la band si è definitivamente sciolta, e quindi poi ognuno è andato per conto suo, e noi, e io ho proseguito invece io a lavorare con Dario Argento facendo altri film, tra i quali appunto Demoni, Fenomena e tanti altri. Bene, allora fino ad arrivare alla Terza Madre, Il Cartaio e tutti quanti. Bene, abbiamo preparato, giusto per far ascoltare i nostri ascoltatori, anche un pezzo di Fenomena, che naturalmente proporremo, poi torniamo a parlare di questa lunghissima carriera. Fenomena è stato il mio primo film dove Dario mi affidava il tema principale, che era Fenomena, appunto, che molto spesso viene accreditato ai Goblin, ma non era Goblin, era solo Claudio Simonetti e basta. Bene, allora lo ascoltiamo dopo questa precisazione, però avremo modo di parlarne anche dopo l'ascolto di questo pezzo. A tra poco, Claudio. Ciao, a dopo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, benissimo. Mentre il pezzo andava, ci siamo sentiti per telefono con Claudio e ha detto una cosa interessante. E l'idea del soprano, Claudio, in questo pezzo. Ma sì, l'idea del soprano mi è venuta perché, vabbè, a parte che istintivamente sentivo la carenza, mi mancava quando ho fatto i provi di Fenomena, ho capito che forse ci poteva far bene la voce, però in quel periodo avevo conosciuto anche un soprano italo-americano che si chiama Pina Magri, che era da poco in Italia, mi ha fatto ascoltare le sue cose e quindi mi venne in mente di usarla per cantare appunto Fenomena. E devo dire che anche lì sono stato fortunato ad aver trovato lei e ad aver avuto l'idea di usare il soprano. È un'idea che io ho presentato a Dario Argento, mi ricordo che sono andato a casa sua, gli ho fatto sentire il provino, gli è piaciuto molto questa idea del soprano e di fare una cosa diciamo diversa dalle solite che avevo sempre fatto. E così è nato Fenomena. Che difficoltà c'è, Claudio, a comporre una colonna sonora? Chiaramente il film si vede prima, le immagini si vedono prima e poi su queste immagini tu componi la colonna. Sì, esatto, si fa così, si vede il film, insieme al regista si discute più o meno il tipo di musica, quale musica si può fare, poi insomma, a parte che adesso dopo tanti ho fatto 13 film con Dario Argento, ormai mi lascia carta bianca, insomma, ci vediamo una volta, poi dopo... io prendo e faccio la musica e poi insomma si collabora anche, io gli faccio sentire, poi lui mi dice quello che va bene, quello che va insomma. Prima avevi fatto un esempio davvero forte che riguardava un po' la musica quando ancora i film erano muti e il pianista si metteva davanti a commentare appunto con i tasti del pianoforte le scene del film. La stessa cosa sì. È successa a te. Beh, la musica da film nasce così, suonandola dal vivo. È una cosa molto bella, molto interessante. Io mi sono cimentato una volta perché mi offrirono di andare a Parigi a una serata dedicata a Dario Argento, però lì appunto gli organizzatori mi chiesero se io potevo suonare le tastiere e il pianoforte durante lo Sferato di Murnau del 1922. Naturalmente il film è lunghissimo, che dura 1 ora e 40, e io ho detto no, non è che posso suonare per 1 ora e 40, e allora ho preparato un quarto d'ora e ho eseguito per un quarto d'ora, ho suonato solo la musica del montaggio del film così, parziale, e devo dire la cosa è piaciuta talmente tanto che mi hanno offerto poi di farlo tutto, e sono stato a Montpellier, al Festival di Montpellier, sempre in Francia, e lì naturalmente ho avuto 6 mesi per prepararmi e ho preparato tutta la musica di Nosferatu e l'ho eseguita dal vivo con tastiere e pianoforte, devo dire che ha avuto un grande successo, solo che purtroppo non ho mai avuto occasione di registrarla né di poter fare un DVD di questa, che peccato. Di questa cosa, perché ci sono dei problemi con i diritti della famiglia Murnau che certo. Insomma non cedono facilmente, anche se poi in realtà esistono tante versioni di Nosferatu in vari DVD, però insomma, però è una cosa che vorrei fare, prima o poi ci riuscirò a distribuirlo. Sì, dopo quanti anni si può recuperare? No, in realtà, i diritti decadono a 70 anni dalla morte, per esempio nel caso dei film, dell'ultimo autore del film, sì. E credo che sono decaduti 9, perché l'ultimo che aveva fatto il film, non so se Murnau stesso, morì nel 1929. Quindi diciamo già 10 anni fa sono caduti i diritti. Esatto, sì, 99. Sì, quindi. Infatti, sì, e quindi allora puoi darci dentro adesso, no? lo so, però il problema, lo sai qual è? Non è tanto i diritti sul film, che non sarebbe niente. Il problema è che esistono delle copie che sono tutte rovinate e le uniche copie belle, restaurate, hanno un copyright. Ah, ok. E quindi è permesso alla famiglia Murnau, che è proprietaria delle copie restaurate. Quindi io non potrei farlo se non usando quelle copie restaurate. Ce n'è una delle più belle della Cineteca di Bologna, che però è di proprietà della famiglia Murnau e che insomma cercano... Infatti sono molti film che si vedono di Nosferatu, però sono sempre pellicole un po' rovinate. Infatti. E così abbiamo capito anche qualcosa di nuovo di questo strano mondo anche dei diritti, che in un certo modo, come dire... preservano gli artisti dalle piraterie e da altre forme di coinvolgimenti poco chiari della musica, ma in altre forme proprio proibiscono il rientrarne in possesso, seppur in maniera, come dire, molto d'amore, diciamo così, per la musica. Certo, purtroppo è vero che la musica dovrebbe essere di tutti, però la musica non si può fare se non c'è un introito di denaro, per cui purtroppo alla fine le case discografiche falliscono per colpa della pirateria e poi alla fine rimarrà allo sbaraglio quello che era una volta la, diciamo, tutto il mercato discografico. Ora ormai è allo sbaraglio perché ormai si producono tutti da soli, poi internet ha creato un sacco di confusione, insomma c'è la saturazione totale, e quindi non so cosa succederà della musica tra 20 anni, 30 anni. Probabilmente perché ci sono troppe idee, ma confuse allora anche nel campo musicale. Ma sì, diciamo che per esempio adesso c'è un grosso ritorno al prog, proprio perché i ragazzi di oggi che fanno rock si rifanno comunque a quelli che sono stati, a quelli che siamo stati noi negli anni 70. Per cui io ho avuto occasione a Roma adesso il 6 novembre di suonare al Teatro Tendastrice in 2 giorni che sono stati organizzati in un festival prog exhibition, in cui praticamente sono esibiti tutti i gruppi storici degli anni 70, dalla PFM, il Banco, i Trip stessi, sono rimessi insieme per l'occasione, gli Osanna, e tra i quali il gruppo La Raccomandata con ricevuta di ritorno. Una domanda che volevamo farti adesso. Perché? È un mio carissimo amico Luciano, cantante, è cantante dei Ritratti della Grecia, che mi ha chiesto di partecipare sia al disco, infatti io ho fatto l'arrangiamento di un pezzo. Il Pittore Volante. Il Pittore Volante è il titolo dell'album, e invece il brano che ho fatto io è Un Uomo Nuovo. E praticamente poi mi ha chiesto di suonarlo quella sera come ospite, e quindi sono andato lì, abbiamo suonato, e devo dire sono state 2 serate fantastiche, sono state circa 8.000 persone in 2 giorni. E quindi è bello vedere tutti questi ragazzi, poi tutti giovani, di tutte le età, insomma. Siete stati all'Elba? I padri che hanno tramandato ai figli questa musica, vedere tutto questo entusiasmo per una musica che suonavamo noi 35 anni fa. Certo. Poi abbiamo ascoltato tutto il nuovo lavoro di Luciano, assieme a voi, che siete stati validissimi collaboratori. Ed è veramente un tripudio, perché ogni canzone, ogni musica trascina la successiva e ci dà veramente un ampio spazio di quello che è il nuovo progressivo italiano. Sì, chiamiamolo così, anche se poi è vecchio, perché in realtà noi con la musica la facevamo già da prima, quindi certo. Oggi i ragazzi riscoprono il passato e lo prendono per nuovo, perché giustamente tante cose che erano vecchie, per chi non le ha sentite, sono nuove, quindi... Ascoltiamo un altro pezzo, Claudio, sempre del tuo lunghissimo repertorio. Maurizio, abbiamo scelto Suspiria. Suspiria, sì. altro hit delle nelle classifiche. Quello è un altro grande successo dei Goblin, forse il film più famoso di Dario Argento in tutto il mondo. Sì, certo. Bene, allora lo ascoltiamo, poi torniamo a parlare piacevolmente con Claudio Simonetti in questa serata di martedì 23 novembre del 2010. Benissimo, grazie. All'interno di Blu Radio Sera. Grazie a te, Claudio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato il grande pezzo Suspiria e lo commentiamo assieme a Claudio Simonetti. Benvenuto in frequenza, Claudio. Ciao. Allora, mi fa piacere riascoltarti questi vecchi pezzi. Sì, anche perché era da parecchio che non tiravi fuori i tuoi vinili, vero? Le tue registrazioni. Quindi hai approfittato, hai chiamato qua e certo. Capito? Esatto. Quindi, e noi ti stiamo facendo ascoltare tutto il tuo repertorio. Bene, no, lo stiamo facendo ascoltare anche ai nostri ascoltatori, perché appunto è sempre bene andare in questo mondo, si diceva prima, questo mondo nuovo per i giovani, ma che qualcuno ha già vissuto e qualcuno ha già creduto in questa musica. E sì. Tastiere Moog, suoni particolari, come avete creato la colonna sonora di Suspiria, Claudio? Suspiria è stato un lavoro diciamo abbastanza lungo, siamo stati oltre 3 mesi in studio, abbiamo avuto un'opportunità di starci proprio perché, visto il grande successo di Profondo Rosso, la casa discografica come secondo lavoro insomma ci ha detto: vabbè, a questo punto se siete così bravi e vendete. Anche perché Profondo Rosso era stato registrato in 10 giorni. Velocissimi. Tutto, sì. E quindi in 3 mesi abbiamo lavorato, ci siamo sbizzarriti, abbiamo fatto venire un Moog grosso, abbiamo fatto usato suoni etnici come il tabla, il buzuki, insomma ci siamo, anche perché calcola che all'epoca, stiamo parlando del 77, non c'erano molte tastiere. Tolto il Moog e non esistevano altri sintetizzatori, quindi tutto quello che si inventava ce lo dovevamo inventare proprio così, fisicamente, i suoni, le cose. E però poi alla fine, poi l'arpeggio di Suspiria in realtà è una celesta, c'è un carillon, poi ci sta la chitarra, insomma ci stanno strumenti veri, ecco, visto che appunto non c'era l'opportunità come oggi usare i campionatori o chissà quali altre diavolerie, insomma. In effetti c'era... Diciamo che oggi hanno appiattito un po' la musica, questa valanga di suoni così, invece allora eravamo un pochettino più personali perché riusciamo, ognuno ci metteva del suo veramente, quindi... E ricordo il vinile, la registrazione era ottima, ottima in tutti i sensi. Sì. Che poi il vinile regala ancora grandi emozioni, non c'è CD che riesca a dare la stessa... No, guarda, ci sono i pro e i contro, io non sono uno che dice ma i vinili erano tutta un'altra cosa, no, ti dirò che i vinili hanno quel calore, hanno quella pasta di suono che è molto bella, però il CD, io ho ricomprato molti dischi di vecchi gruppi appunto come Gentle Giant, King Crimson, Yes... Ho sentito cose che voi umani, come diceva in Blade Runner, ho sentito cose che sul disco non si sentivano, tipo, che ne so, dei cori lontani, degli echi belli, dei tamburelli, delle cose che purtroppo la tessina e il vinile e il socco non riproduce, perché la gamma del vinile è molto limitata, invece il CD ti fa riascoltare esattamente così come l'hai fatto, quindi abbiamo potuto sentire i master originali così come erano, che non erano falsati dal suono più o meno bello brutto del vinile. Certo. Quindi io non so, cioè, a me piacciono molto i vinili, ma più come oggetto, perché il vinile è bello, è grande, non ti devi mettere gli occhiali per leggere, è un bello oggetto, capito? Tiri fuori il disco, lo metti con la puntina, però come qualità delle volte è più il fruscio, è più lo scrocchio della tessina che quello che senti, però ha il suo fascino, chiaramente. Casse acustiche o cuffia? Sì. No, voglio dire, tra la... Ah, io? Scegli, Ma guarda, io la musica la sento molto così, magari quando lavoro col computer, metto le casse esterne così, la cuffietta dopo un po' mi dà fastidio perché io già passo la vita in studio, quindi se mi devo mettere le cuffie pure quando sento la musica divento matto. Certo. Ecco, capito, quindi quando sono dal vivo pure uso lì in ear monitor, e quindi ho sempre le cuffie, quindi quando viaggio, ecco, magari sto in aereo, posso anche mettere il Walkman, l'iPod o cose del genere, però normalmente io la musica la sento così, come sottofondo con le casse. Cosa ti porti dietro, visto che ci hai messo questa curiosità da ascoltare? Quali sono i tuoi gruppi, diciamo, preferiti, oltre ai Goblin, oltre ai tuoi dischi, Claudio? Ma guarda, io io ascolto tutto, mi piace tutto, sono centinaia quelle le cose che mi piacciono, non ho delle preferenze in special modo. Così, se tu mi dicessi attualmente chi è che ascolti di più, non te lo saprei dire, perché io ascolto veramente tutto, ascolto persino la musica techno, oppure ascolto tu veramente tutto, perché quando vuoi farti del male, divertito a fare tutto. Ho sempre, sono passato da Profondo Rosso a Gioca Cioè, quindi immagini se esatto. Non mi può piacere tutto. Dobbiamo ribadire, ecco, che Gioca Cioè è tuo praticamente. Certo, lo sanno sempre in pochi, mi tocca sempre raccontarlo, perché Cecchetto, quel fedentone, sì. non lo dice mai, si tiene tutti i meriti lui, i suoi, anche se devo dire, ecco, l'idea era sua, sì, di fare una cosa del genere, però quando lui mi ha detto vorrei fare una cosa del genere, perché quello è un periodo che ci frequentavamo, io sono entrato in casa mia, mi ricordo, feci il provino, la prima cosa che mi viene in mente è la tarantella. E allora feci questa cosa, poi infatti funzionò a punto tale è diventato poi quello che è. Fantastico. E poi adesso è un pezzo firmato da me e da lui, anche se i meriti si riprende solo lui, va bene. Sì, bene. No, perché voglio dire, i diritti d'autore però non arrivano solo a lui, quindi ecco, è importante. Certo. Anche perché ogni villaggio che si rispetti, inserita nella propria programmazione musicale, c'ha Gioca Cioè. Ma quello devo dire è un evergreen, ormai conclamato, per cui insomma, veramente lo ascoltiamo dappertutto e ha sempre un pezzo che non muore mai, insomma, o tra satire o prese in giro o cose del genere, comunque lo rifanno sempre, io non faccio altro che mi fa piacere che poi io quando guardo la televisione vedo magari, non so, fanno i pacchi e mettono Profondo Rosso, Sospiria. E poi dopo magari il programma successivo vedi quello che mette Gioca Cioè per far ballare la gente, quindi mi è bello pensare che io ho fatto due cose così diverse e delle quali non mi vergogno, perché io non mi vergognerò mai di Gioca Cioè, perché comunque è un pezzo che ha una sua valenza e a me piace molto, e magari ne facessi uno l'anno così. Certo, no, voglio dire, anche perché sarei a posto. E da qui si conferma che sei un artista tutto tondo, perché voglio dire, sei spaziato da queste musiche così impegnate, da Sospiri. No, anche perché io, ecco, ti faccio questa cosa. Quando nel 78 io ho lasciato i Goblin, i Morante pure, insomma, in realtà non è che abbiamo lasciato i Goblin, perché ormai era un periodo in cui la musica rock stava finendo. Ormai sia politicamente che musicalmente il mondo stava cambiando, non erano più gli anni di piombo, gli anni delle contestazioni, gli anni delle cose, la gente si era stancata, e quindi arrivavano gli anni 80 che, come ben sai, hanno portato tutta un'altra aria, dal Saturday Night Fever ai Bee Gees, a Grease, passando poi per Spandau Ballet, Duran Duran, tutta gente completamente diversa dal rock progressive degli anni 70. E quindi io avevo già capito, insomma, eravamo un po' stanchi anche noi, non eravamo più i Goblin che tutti pensano che eravamo, non sono separati, no, in realtà eravamo in crisi, perché non andavamo più né indietro né avanti. E da lì io poi ho appena lasciato i Goblin, ho conosciuto un produttore, Giancarlo Meo, con il quale ho cominciato a fare la dance. Esatto. E quindi abbiamo fatto subito l'album Easy Going, che ha avuto un grandissimo successo, poi ad arrivare poi a BB&B, addirittura che è arrivato nei primi posti in America con l'album Give Me a Break. L'hai prodotto a te. E poi durante quel periodo ho fatto anche Gioca Cioè, Capricorn, certo. Casso, che non è una parolaccia, ma era un pezzo suonato al pianoforte. Sì, è vero. Esatto. Bene, allora continuiamo così con quelle che sono le esperienze musicali legate ai Goblin, poi torniamo insieme a Claudio per le ultime parole ed i saluti finali. Le ultime parole famose. Le ultime parole famose, sì. Allora abbiamo in programmazione Zombie, che non è un film di Dario Argento, ma un film di Romero, vero Claudio? No, film di Giorgio Romero. Però siccome Dario Argento era in produzione con Romero e aveva anche fatto parte della sceneggiatura, aveva scritto una parte della sceneggiatura, aveva portato il film in Italia e lo voleva distribuire in Europa, in Italia. Però la versione che aveva mandato Romero in realtà non era quella che poi avete visto dopo, tutti i parti. Era un film, era molto più lungo, prolisso, aveva una musica così, neanche un granché, perché aveva preso delle libraries americane. Le libraries sono delle musiche che tu puoi mettere, chiedi solo i diritti, quindi non c'era neanche un vero e proprio musicista. E Dario Argento disse no, secondo me bisogna cambiare la musica, tagliarlo. E così fece, e noi abbiamo fatto la musica, lui tagliò il film di una mezz'oretta, il film ha acquistato un altro ritmo sia musicalmente che appunto visivamente, tant'è che Romero vide la copia poi definitiva nostra e europea e decise di cambiarla anche in America. Però in mezzo a tutto questo io Romero non l'ho mai visto in vita mia, non so neanche che faccia abbia. Sì. Perfetto, quindi è tendiamo a precisare questo. Sì. Benissimo, allora ce l'ascoltiamo qui su Blu Radio Veneto, questo pezzo dei Goblin con Zombie, l'alba dei morti viventi. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E ci siamo ascoltati anche un pezzo di Zombie, l'alba dei morti viventi. Assolutamente canzoni allegre. Benvenuto ancora una volta Claudio Simonetti. Sì, no, ma bisogna... per questo ogni tanto cambiavo genere, perché così mi rallegravo un po'. No, certo. No, ma voglio dire, adesso queste canzoni così ascoltate danno anche però un'immagine anche delicata della cosa, cioè non trasmettono solamente quella sensazione di paura che era molto legata ai film. Ascoltandole da sole si crea un'atmosfera anche diversa, se vogliamo. Sì, sì, sì. Allora, sì. Noi siamo arrivati quasi al termine dell'intervista, Claudio, e ci ha fatto molto piacere. Grazie a voi, insomma, mi fa piacere che, insomma, stia riprendendo questo genere, che abbia molte radio, molte persone come voi che la promuovono, certo, insomma, è una bellissima cosa, sono io che vi devo ringraziare. Grazie a te Claudio, assolutamente, perché appunto te e tutti gli altri artisti che si alternano a presentare la loro musica, insomma, danno una visione globale di quella che dovrebbe essere la musica, e lasciando un po' da parte anche tutte quelle musiche che si sentono in giro, le radio commerciali le conoscono molto meglio, certo, di noi. Sì. Lo so. Ecco, devono campare pure loro, no? Sì, certo. Assolutamente sì. Quello, sì. Quindi, sono quelli che campano bene, però. Ecco, sì, certo. Vabbè. Grazie, vabbè, Claudio. Noi ci possiamo risentire, guarda, anche verso fine gennaio e febbraio, perché ho due album che usciranno. Uno è l'album nuovo dei Demonia. Benissimo. E il nuovo album dei Goblin. Quindi avremo occasione di sentirci, certo, presentandoli chiaramente. Molto volentieri. Mettiamo già una data, verso fine gennaio o più verso magari metà febbraio. Ci risentiamo in quel periodo lì, più o meno, comunque magari vi farò sapere. Certo. Mi piacciono questi appuntamenti estratti proprio in diretta. Benissimo, Claudio Simonetti è stato ospite qui con noi, abbiamo conosciuto ancora la sua musica, quella che suonava con Goblin, che adesso appunto a gennaio avranno un altro disco da presentarci, e concludiamo con un altro pezzo. Sì, un pezzo tratto da un film, non dell'horror stavolta, Claudio. E sì, quale? La via della droga, mi pare. Sì, la via della droga. Beh, esatto, sì, che non è un film dell'horror. Giustamente al telefono dicevi, qualche volta ho scritto anche colonne sonore non per film dell'horror, chiaramente. No, beh, con i Goblin abbiamo fatto parecchie cose, tipo la squadra antimafia, la squadra antigangster, la via della droga. E i squadra antimafia e la squadra antigangster erano i film con Thomas Millian, il commissario Monnezza, quindi anche noi abbiamo fatto delle cose diverse, insomma, non abbiamo solo spaventato la gente. Certo. Vabbè, allora grazie Claudio, è stato davvero un piacere. E noi Maurizio, grazie a te. Ciao. E noi Maurizio, un ultimo. Sì, volevo solo ringraziare Alberto Prisco, che grazie a lui abbiamo intervistato sia Bernardo Lazzetti sia Claudio Simonetti. Benissimo, allora quando si ritorna? Con domani ci saranno, sono i Metodica che fanno Progressive. Metodica Progressive da Verona. Da Verona vengono qui nei nostri studi di Blu Radio Veneto per presentare il live, appunto, per presentare il loro disco, il primo disco in uscita dei Metodica. Quindi dalle ore 22 in diretta fino alle 24. Benissimo, allora a domani con la grande musica di Blu Radio Veneto. Però non abbandonateci, perché adesso comincia il nostro amico Renato Ferro con Hard Rock, Heavy Metal, ce n'è per tutti fino alle 24 qui su Blu Radio Veneto. Da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, saluto grande e caloroso, ciao e fatti bravi, buonanotte.